Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. Capitolo VI. La perla di Labuan. Quando tornò in sé, con sua grande sorpresa, non si trovava più nella piccola prateria che aveva attraversata durante la notte, bensì in una spaziosa camera tappezzata di carta fiorita di Fung ed adagiato su un comodo e soffice letto. A tutta prima si credette in preda ad un sogno e si stropicciò parecchie volte gli occhi come per destarsi, ma ben presto si convinse che tutto era realtà. Si alzò a sedere chiedendosi a più riprese: «Ma dove sono io? Sono ancora vivo o morto?» Guardò attorno ma non vide alcuna persona a cui potersi rivolgere. Allora si mise a osservare minutamente la stanza, illuminata da due grandi finestre attraverso i cui vetri si vedevano degli alberi altissimi. In un canto vide un pianoforte sul quale stavano sparpagliate delle carte di musica. In un altro un cavalletto con un quadro raffigurante una marina, nel mezzo un tavolo di mogano con sopra un lavoro di ricamo, fatto senza dubbio dalle mani di una donna, e presso il letto un ricco sgabello ad intarsi di ebano e di avorio, sul quale Sandokan vide, non senza una viva compiacenza, il suo fedele Chris, e presso questo un libro semiaperto con un fiore appassito tra le pagine. Tese gli orecchi, ma non udì alcuna voce. Però in distanza udivansi dei suoni delicati che parevano gli accordi di una mandola o di una chitarra. «Dove sono io?» si chiese per la seconda volta. «In casa di amici o di nemici? E chi mai ha fasciata e curata la mia ferita?» I suoi occhi si fermarono nuovamente sul libro che stava sullo sgabello e, spinto da un'irresistibile curiosità, allungò una mano e lo prese. Sulla copertina vi era un nome impresso a lettere d'oro. «Marianna», lesse egli. «Cosa vuol dire ciò? È un nome o una parola che io non comprendo?» Tornò a leggere e, cosa strana, si sentì agitato da una sensazione ignota. Qualche cosa di dolce colpì il cuore di quest'uomo, quel cuore che era di acciaio e che restava chiuso alle più tremende emozioni. Aprì il libro. Era coperto d'un carattere leggero, elegante e nitido, ma non riuscì a comprendere quelle parole, quantunque alcune somigliassero alla lingua del portoghese Yanez. Senza volerlo, ma spinto da una forza misteriosa, prese delicatamente quel fiore che poco prima aveva veduto e lo mirò a lungo. Lo fiutò più volte, procurando di non guastarlo con quelle dita che altro non avevano stretta che l'impugnatura della scimitarra, provando per la seconda volta una strana sensazione, un misterioso tremito, un non so che nel cuore. Poi quell'uomo sanguinario, quell'uomo di guerra, si sentì vincere da un vivo desiderio di portarlo alle labbra. Lo ripose quasi con dispiacere fra le pagine, chiuse il libro e lo ricollocò sullo sgabello. Era tempo, la maniglia della porta girò ed un uomo si fece innanzi, camminando lentamente e con quella rigidezza che è particolare degli uomini di razza anglosassone. Era un europeo, a giudicare dalla tinta della pelle, di statura piuttosto alta e ben complessa. Dimostrava circa 50 anni, aveva il viso incorniciato da una barba rossiccia, ma che cominciava ad incanutire, due occhi azzurri, profondi. E nell'insieme si comprendeva un uomo abituato a comandare. «Godo di vedervi tranquillo, erano 3 giorni che il delirio non vi lasciava un solo momento di quiete.» 3 giorni, esclamò Sandokan stupito, 3 giorni che sono qui, ma non sogno io adunque.» «No, non sognate, siete presso buone persone che vi cureranno affettuosamente e che faranno il possibile per guarirvi. Ma chi siete voi?» Lord James Gillong, capitano di vascello di Sua Maestà, la graziosa imperatrice Vittoria. Sandokan fece un soprassalto e la sua fronte si offuscò. Però si rimise prontamente e, facendo uno sforzo supremo per non tradire l'odio che portava contro tutto ciò che era inglese, disse: «Vi ringrazio, milord, di tutto quello che avete fatto per me e per uno sconosciuto che poteva essere un vostro mortale nemico. Era mio dovere di accogliere in casa mia un povero uomo, ferito, forse mortalmente», riprese il lord. «Come state ora?» «Mi sento abbastanza gagliardo e non provo più dolori. Ho molto piacere per vedermi. Se non vi rincresce, chi vi ha conciato in codesto modo? Oltre la palla che vi estrassi dal petto, il vostro corpo era coperto di ferite prodotte da armi bianche». Sandokan, quantunque si aspettasse questa domanda, non poté fare a meno di trasalire fortemente. Tuttavia non si tradì, né si perdette d'animo. «Se dovessi proprio dirlo, non saprei», rispose. «Ho visto degli uomini piombare di notte sui miei legni, montare all'abordaggio e massacrarmi i marinai. Chi erano? Io non lo so, poiché fino al primo urto caddi in mare coperto di ferite». «Voi siete stato senza dubbio assalito dai tigrotti della Tigre della Malesia», disse Lord James. «Dai pirati!» esclamò Sandokan. «Sì, da quelli di Monpracem, che 3 giorni fa scorazzavano i dintorni dell'isola, ma che furono poi distrutti da uno dei nostri incrociatori. Ditemi, dove siete stato assalito?» «Nei pressi delle Romades». «Giungeste alle nostre coste a nuoto?» «Sì, aggrappato ad un rottame. Ma voi dove mi avete trovato?» «Sdraiato tra le erbe, in preda ad un tremendo delirio. E voi dove eravate diretto quando veniste assalito?» «Andavo a portare dei regali al sultano di Varauni, da parte di mio fratello». «Ma chi è il vostro fratello?» «Il sultano di Shaja». «Voi adunque siete un principe malese», esclamò il lord, stendendogli la mano che Sandokan, dopo una breve esitazione, strinse quasi con ribrezzo. «Sì, milord. Ah, sono ben lieto di avervi ospitato e farò il possibile per non farvi annoiare quando sarete guarito. Anzi, se non vi spiacerà, andremo a trovare insieme il sultano di Varauni». Egli si arrestò, sporgendo innanzi il capo come se cercasse di raccogliere qualche lontano rumore. Dal di fuori venivano gli accordi di una mandola, forse gli stessi suoni che aveva udito poco prima. «Milord», esclamò in preda ad una viva agitazione di cui invano cercava di spiegare la causa, «chi è che suona?» «Perché, mio caro principe?» disse l'inglese sorridendo. «Beh, non lo so, ma avrei un vivo desiderio di vedere la persona che così suona. Si direbbe che questa musica mi tocca il cuore e che mi fa provare una sensazione che mi è nuova ed inesplicabile». «Aspettate un istante», gli fece segno di coricarsi e uscì. Sandokan ricadde sul guanciale, ma quasi subito si rialzò come se fosse stato spinto da una molla. La inesplicabile commozione che lo aveva colpito poco prima ritornava a prenderlo con maggiore violenza. Il cuore gli batteva in maniera tale che pareva volesse uscirgli dal petto. Il sangue gli scorreva furiosamente per le vene e le membra provavano degli strani fremiti. «Ma cosa provo io?» si chiese egli. «È forse il delirio che mi assale ancora?» Aveva appena pronunciate quelle parole che il lord rientrava, ma non era solo. Dietro di lui si avanzava, sfiorando appena il tappeto, una splendida creatura, alla cui vista Sandokan non poté trattenere una esclamazione di sorpresa e di ammirazione. Era una fanciulla di 16 o 17 anni, dalla taglia piccola ma snella ed elegante, dalle forme superbamente modellate, dalla cintura così stretta che una sola mano sarebbe bastata per circondarla. dalla pelle rosea e fresca come un fiore appena sbocciato. Aveva una testolina ammirabile, con due occhi azzurri come l'acqua del mare, una fronte d'incomparabile precisione, sotto la quale spiccavano due sopracciglia leggiadramente arcuate che quasi si toccavano. Una capigliatura bionda le scendeva in pittoresco disordine, come una pioggia d'oro sul bianco busticino che le copriva il seno. Il pirata nel decore della bambina, malgrado la sua età, si era sentito scuotere fino in fondo all'anima quell'uomo così fiero, così sanguinario, che portava quel terribile nome di Tigre della Malesia. Per la prima volta in vita sua si sentiva affascinato dinanzi a quella gentile creatura, dinanzi a quel leggiadro fiore sorto sotto i boschi di Labuan. Il suo cuore, che poco prima batteva precipitosamente, ora ardeva nelle vene, gli pareva che scorressero lingue di fuoco. «Ebbene, mio caro principe, cosa dite di quella graziosa ragazza?» gli chiese il lord. Sandokan non rispose. Immobile, come una statua di bronzo, egli fissava la giovinetta con due occhi che mandavano lampi di ardente bramosia e pareva che più non respirasse. «Vi sentite male?» chiese il lord, che lo osservava. «No, no, no!» esclamò vivamente il pirata, scuotendosi. «Allora permettetemi di presentarvi a mia nipote, Lady Marianna Geelong.» «Marianna Geelong, Marianna Geelong», ripeté Sandokan con accento sordo. «Che vi trovate di strano nel mio nome?» chiese la giovinetta, sorridendo. «Si direbbe che vi ha prodotto molta sorpresa.» Sandokan, nell'udire quella voce, trasalì fortemente, una voce così dolce a carezzare i suoi orecchi abituati all'infernale musica delle cannone e delle urla di morte dei combattenti. «Nulla vi trovo di strano», disse con voce alterata, «gli è che il vostro nome non mi giunge nuovo.» «Ah!» esclamò il lord. «E da chi lo avete udito?» «Lo avevo già letto prima sul libro che qui vedete e mi ero immaginato che chi lo portava doveva essere una splendida creatura.» «Voi scherzate», disse la giovane lady arrossendo, poi cambiando tono disse: «È vero che i pirati vi hanno gravemente ferito?» «Sì, è vero», rispose Sandokan con voce sorda. «Mi hanno vinto e ferito, ma un giorno sarò guarito e allora guai a coloro che mi hanno fatto mordere la polvere.» «E soffrite molto?» «No, milady, ed ora meno di prima. E spero che guarirete presto.» «Il nostro principe è vigoroso», disse il lord, «e non mi stupirei di vederlo in piedi fra una decina di giorni.» «E lo spero», rispose Sandokan. Ad un tratto, egli, che non staccava i suoi occhi dal viso della giovinetta, sulle cui gote scorreva di quando in quando una nube rosea, si raddrizzò impetuosamente, esclamando: «Milady!» «Mio Dio, cosa avete?» chiese la lady, avvicinandosi. «Ditemi. Voi portate un altro nome infinitamente più bello di quello di Marianna Geelong, è vero?» «Quale mai?» chiesero ad un tempo il lord e la giovane contessa. «Sì, sì», esclamò Sandokan con maggiore forza. «Non potete essere che voi la creatura che tutti gli indigeni chiamano la Perla di Labuan.» Il lord fece un gesto di sorpresa e una profonda ruga e gli solcò la fronte. «Amico mio», disse con voce grave, «come mai voi sapete ciò, mentre mi avete detto che venivate dalla lontana penisola malese?» «Non è possibile che questo soprannome sia giunto fino al vostro paese», aggiunse Lady Marianna. «Non lo udì a Shaja», rispose Sandokan, che per poco non si era tradito, «ma bensì alle Romades, sulle cui spiagge sbarcai giorni or sono. Colà mi parlarono d'una fanciulla d'incomparabile bellezza, dagli occhi azzurri, dai capelli profumati come i gelsomini del Borneo, di una creatura che cavalcava come una mazzone e che cacciava arditamente le fiere, di una vaga giovanetta che in certe sere al tramonto del sole si vedeva apparire sulle sponde di Labuan, affascinando con un canto più dolce del mormorio dei ruscelli i pescatori delle coste. Ah, milady, anch'io un giorno voglio udire quella voce.» «Tante grazie mi attribuiscono», rispose la lady, ridendo. «Sì, e vedo che quegli uomini che mi parlarono di voi hanno detto il vero», esclamò il pirata con slancio appassionato. «Adulatore», disse ella. «Mia cara nipote», disse il lord, «tu stregherai anche il nostro principe.» «Ne sono convinto», esclamò Sandokan. E quando lascerò questa casa per tornare nel mio paese, dirò ai miei compatrioti che una giovane donna dei visi bianchi ha vinto il cuore di un uomo che credeva di averlo invulnerabile. La conversazione durò ancora qualche po', aggirandosi ora sulla patria di Sandokan, ora sui pirati di Monprachem, ora su Labuan. Poi, essendosi fatta notte, il Lord e la giovane si ritirarono. Quando il pirata si vide solo, rimase a lungo immobile, con gli occhi fissi sulla porta dalla quale era uscita quella vaga giovanetta. Pareva che fosse in preda a profondi pensieri e ad una viva commozione. Forse in quel cuore che fino allora mai aveva provato un battito per alcuna donna, in quel momento imperversava una terribile tempesta. Ad un tratto Sandokan si scosse e qualche cosa come un suono rauco gli rumoreggiò in fondo alla gola, pronto a irrompere, ma le labbra rimasero chiuse e i denti si strinsero con maggior forza in un lungo stridio. Egli rimase alcuni minuti lì, immobile, con gli occhi fiammeggianti, il viso alterato, la fronte imperlata di sudore, le mani cacciate dentro i folti e lunghi capelli. Poi quelle labbra che non volevano aprirsi lasciarono un varco dal quale uscì ratto un nome: Marianna. Poi il pirata non si fermò più. «Ah!» esclamò egli, quasi con rabbia e torcendosi le mani. «Sento che io divento pazzo. Sento che io l'amo». Capitolo VII. Guarigione ed amore. Lady Marianna Gillonk era nata sotto il bel cielo d'Italia, sulle rive dello splendido golfo di Napoli, da madre italiana e da padre inglese. Rimasta orfana a 11 anni ed erede di una cospicua sostanza, era stata raccolta da suo zio James, l'unico parente che allora si trovasse in Europa. In quei tempi James Gillock era uno dei più intrepidi lupi di mare dei due mondi, proprietario di una nave armata ed equipaggiata da guerra, onde cooperare con James Brooke, diventato più tardi Rajah di Sarawak, allo sterminio dei pirati malesi, terribili nemici del commercio inglese in quei lontani mari. Quantunque Lord James, ruvido come tutti i marinai, incapace di nutrire un'affezione qualsiasi, non provasse tenerezze soverchie per la giovane nipote, piuttosto di affidarla a mani straniere, l'aveva imbarcata sul proprio legno, conducendola al Borneo ed esponendola ai gravi pericoli di quelle dure crociere. Per 3 anni la ragazzina era stata testimone di quelle sanguinose battaglie nelle quali perivano migliaia di pirati e che diedero al futuro Rajah Brooke quella triste celebrità che commosse profondamente e indignò i suoi stessi compatrioti. Un giorno però Lord James, stanco di carneficine e di pericoli, forse ricordandosi di avere una nipote, aveva abbandonato il mare e si era stabilito a Labuan, seppellendosi sotto i grandi boschi del centro. Lady Marianna, che toccava allora il 14° anno e che in quella vita perigliosa aveva acquistata una fierezza ed una energia unica, quantunque sembrasse un'esile bambina, aveva cercato di ribellarsi ai voleri dello zio, credendo di non potersi abituare a quell'isolamento e a quella vita quasi selvaggia, ma il lupo di mare, che pareva non nutrisse molta affezione per lei, era rimasto inflessibile. Costretta a subire quella strana prigionia, si era interamente data a completare la propria educazione che fino allora non aveva avuto tempo di curare. Dotata di una tenace volontà, a poco aveva modificato gli impeti feroci contratti in quelle aspre e sanguinose battaglie e quella ruvidità contratta nel continuo contatto con la gente di mare. Era così diventata una appassionata cultrice della musica, dei fiori, delle arti belle, mercé le istruzioni di un'antica confidente di sua madre, spenta più tardi dall'ardente clima tropicale, conservando in fondo all'anima qualche cosa dell'antica fierezza, era diventata buona, gentile, caritatevole. Non aveva abbandonata la passione per le armi e gli esercizi violenti e ben spesso, indomita amazzone, percorreva i grandi boschi inseguendo persino le tigri. O pari ad una naiade si tuffava intrepidamente nelle azzurre onde del Mar Malese, ma più sovente si trovava là ove la miseria o la sventura infieriva recando soccorsi a tutti gli indigeni dei dintorni, a quegli indigeni che Lord James odiava a morte come discendenti di antichi pirati. E così quella fanciulla, con la sua intraprendenza e la sua bontà e per la sua bellezza, si era meritata quel soprannome di Perla di Labuan, soprannome volato così lontano e che aveva fatto battere il cuore della formidabile tigre della Malesia. Ma sotto quei boschi, quasi lontana da ogni creatura civile, la bambina, diventata ragazza, non si era mai accorta di essere donna. Ma quando ebbe veduto quel fiero pirata, senza sapere il perché, ella aveva provato uno strano turbamento. Cos'era? Ella lo ignorava. Ma si vedeva sempre dinanzi agli occhi e alla notte le appariva in sogno quell'uomo dalla figura così fiera che aveva malvagato un sultano e che possedeva la galanteria d'un cavaliere europeo. Quell'uomo dagli occhi scintillanti, dai lunghi capelli neri e quel viso su cui leggeva sì a chiare parole un coraggio più che indomito e un'energia più unica che rara. Dopo d'averlo affascinato coi suoi occhi, con la sua voce, con la sua bellezza, era rimasta a sua volta affascinata e vinta. Aveva dapprima cercato di reagire contro quel battito del cuore che per lei era nuovo, come era nuovo per Sandokan, ma invano. Sentiva sempre che una forza irresistibile la spingeva a rivedere quell'uomo e che non ritrovava la calma di prima che presso di lui. Si sentiva solamente felice quando si trovava al letto di lui e quando gli leniva gli acuti dolori della ferita col suo chiacchierio, coi suoi sorrisi, con la sua impareggiabile voce e con la sua mandola. E bisognava vederlo in quei momenti, Sandokan, quando ella cantava le dolci canzoni del lontano paese natio, accompagnandole coi delicati suoni del melodioso istrumento. Allora non era più la tigre della Malesia, non era più il sanguinario pirata, muto, analante, madido di sudore, rattenendo il respiro per non turbare con l'alito quella voce argentina e melodiosa, ascoltava come un uomo che sogna, come se avesse voluto imprimersi nella mente quella lingua sconosciuta che lo innebbiava, che gli soffocava le torture della ferita, e quando la voce, dopo aver vibrato un'ultima volta, moriva con l'ultima nota della mandola, lo si vedeva rimanere a lungo in quella posa, con le braccia tese come se volesse attirare a sé la fanciulla, con lo sguardo fiammeggiante fisso in quello umido di lei, col cuore sospeso e gli orecchi tesi come se ascoltasse ancora. In quei momenti egli non si ricordava più di essere la tigre. Dimenticava la sua Monprachem, i suoi Prahos, i suoi tigrotti e il portoghese che forse in quell'ora, credendolo per sempre spento, vendicava la sua morte chissà con quali sanguinose rappresaglie. I giorni così volavano rapidi e la guarigione, potentemente aiutata dalla passione che gli divorava il sangue, procedeva rapida. Nel pomeriggio del quindicesimo giorno il Lord, entrato improvvisamente, trovò il pirata in piedi, pronto ad uscire. «Oh, mio degno amico!» esclamò allegramente. «Sono ben contento di vedervi in piedi!» «E non mi era più possibile rimanere a letto, mi Lord», rispose Sandokan. «D'altronde mi sento tanto forte da lottare con una tigre!» «Benissimo, allora vi metterò presto alla prova!» «In quale modo?» «Ho invitato alcuni buoni amici alla caccia d'una tigre che viene sovente a ronzare presso le mura del mio parco. Già che vi vedo guarito stasera, andrò ad avvertirli che domani mattina cacciamo la belva.» «Sarò della partita, milord.» «Lo credo, ma dimmi ora, spero di ritrovare qualche tempo mio ospite.» «Milord, gravi affari mi chiamano altrove e bisogna che mi affretti a lasciarvi.» «Lasciarmi? Non pensatelo. Per gli affari vi è sempre tempo e vi avverto che io non vi lascerò partire prima di qualche mese. Orsù, promettetemi di restare.» Sandokan lo guardò con due occhi che mandavano lampi per lui rimanere in quella villa presso la giovinetta che lo aveva affascinato. Era la vita, era tutto. Non chiedeva di più per il momento. Che importava a lui che i pirati di Mompracem lo piangessero come morto quando poteva rivedere per molti giorni ancora quella divina fanciulla? Che importava a lui del suo fedele Yanez che forse lo cercava ansiosamente sulle sponde dell'isola giocando la propria esistenza quando Marianna cominciava ad amarlo? E che importava a lui se non udiva più il tuonare delle fumanti artiglierie quando poteva ancora udire la voce deliziosa della donna amata o provare le terribili emozioni delle battaglie quando lei gli faceva provare delle emozioni più sublimi? E che importava infine a lui se correva il pericolo di venire scoperto, forse preso, forse ucciso, quando poteva ancora respirare la medesima aria che alimentava la sua Marianna, vivere in mezzo ai grandi bimbosotti che gli arrivava lei? Tutto avrebbe dimenticato per continuare ancora così per 100 anni, la sua Mompracem, i suoi tigrotti, i suoi legni, e persino le sue sanguinose vendette, sì, milord. «Io rimarrò finché vorrete», disse egli con impeto. «Accetto l'ospitalità che voi così cordialmente mi offrite. E se mai un giorno, non dimenticate queste parole, milord, noi dovremmo incontrarci non più amici, ma fieri nemici con le armi in pugno. Saprò allora ricordare la riconoscenza che vi devo». L'inglese lo guardò stupefatto. «Perché mi parlate così?» chiese. «Forse un giorno lo saprete», rispose Sandokan con voce grave. «Non voglio indagare per ora i vostri segreti», disse il Lord sorridendo. «Aspetterò quel giorno». Trasse l'orologio e guardò. «Bisogna che parta subito, se devo avvisare gli amici della caccia che intraprenderemo. Addio, mio caro principe», disse. Stava per uscire quando si fermò dicendo: «Se vorrete scendere nel parco, troverete mia nipote, che spero vi terrà buona compagnia». «Grazie, milord».